Tempo di Sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio, la puntata di oggi è dedicata a questo scudetto del Milan, al primo tentativo di un allenatore. Ora, nella storia rossonera era già successo a gente che si chiamava Nereo Rocco, che si chiamava Arrigo Sacchi, Alberto Zaccheroni, ma quest'anno è toccato a Massimiliano Allegri, primo tentativo, primo centro. Ora, poiché Massimiliano Allegri, qualcuno di voi lo saprà, è stato l'allievo prediletto di Galeone, l'intervista del mercoledì, che è una nostra abitudine, una nostra tradizione, è con Giovanni Galeone, Gali per gli amici, che compilerà una sorta di sua pagella dedicata all'ex allievo. Buongiorno Gale. Buongiorno, buongiorno. Senti, facciamo così, partiamo da un voto secco che Galeone dà ad Allegri per questa sua stagione. Ma fino adesso merita un'abbondantissima 8-9. 8-9, un abbondantissimo 8-9. Un abbondantissimo 8, quasi 8, 9. Un dai. Abbondantissimo 8 che tende al 9. Bene, allora, siamo partiti dal voto. Senti, io comincerei col dire, così ti provoco un po', che l'allievo, se parliamo di risultati, insomma, visto che lo scudetto ormai è in scarsella, anche se non è ancora aritmetico, qui succede un po' come Giotto Cimabue, no? Che l'allievo ha superato il maestro già. Se parliamo non ci voleva molto, diciamo la verità. Ha avuto dalla sua la bravura di fare molto molto bene a Cagliari. E la fortuna che il Milan, Galliani in prima persona penso, abbia creduto in lui, abbia visto in lui probabilmente quello che poteva sviluppare il gioco del Milan da adesso in futuro, ecco. Era sicuramente uno dei giovani emergenti e uno dei più bravi con il materiale a disposizione che aveva il Cagliari, soprattutto se si pensa che le prime 5 partite erano finite in 5 sconfitte. Certo. E quindi solo un grande riesce a tirarsi fuori in condizioni del genere. Quindi tu dici che le basi, come sempre, insomma, tu di gavetta ne hai fatta tanta, anche Allegri ha fatto la sua gavetta in categorie inferiori prima e poi in un certo senso si può intendere in rapporto al Milan che gavetta anche quella di Cagliari. Beh certo, in rapporto al Milan gavetta anche quella, ma ha allenato l'Aglianese, ha allenato la Spal, come ho allenato io d'altronde, certo. 3 anni, ha allenato il Grosseto come ho allenato io, quindi qualcosina di squadre insieme l'abbiamo fatta, però ha poi allenato Sassuolo, insomma prima di arrivare a Cagliari, avere l'opportunità di allenare in Serie A, ha fatto la sua gavetta con una promozione dalla C alla B con il Sassuolo, che insomma era già quello un ottimo risultato. Che cosa ha preso in particolare da te, dai tuoi metodi, dalla tua filosofia calcistica Allegri e ha trasportato prima nel Cagliari e adesso nel Milan? Ma io direi una specie di conquista della palla organizzata, non un pressing asfissiante, però organizzato di squadra più che di singolo. Sì. E una volta conquistata la palla, degli inserimenti veloci, soprattutto dei centrocampisti. I miei centrocampisti nella mia squadra hanno sempre fatto molti gol, compreso, sì, Allegri, che in Serie A il primo anno fece 10 gol. Per cui sì, questi inserimenti dei centrocampisti, questa palla giocata in avanti, molto in avanti. Difficilmente si vede una palla tocchettata all'indietro, eccetera. Ogni tanto quando si fa possesso di palla lo si fa per far credere all'avversario di essere paghi del risultato, poi si fanno improvvise accelerazioni e si mette in difficoltà l'avversario. In questo un po' abbastanza, insomma, ricalca un po' quelle che erano le mie idee. Certo. Senti, io credo che ci siano anche dei numeri che parlano. Allora, il Milan di Allegri ha, insieme ex aequo con l'Inter, il miglior attacco, con 60 gol, che sono abbastanza tanti, forse non tantissimi, però ha nettamente la migliore difesa, con 23 gol contro i 32 della Lazio, che è seconda. Non solo, ha distribuito i suoi 74 punti esattamente alla pari, cioè ha fatto 37 punti a San Siro e 37 li ha fatti fuori. Questo cosa testimonia? Un grande equilibrio, ma anche insomma, una delle tante riprove che i campionati in Italia si vincono più con la miglior difesa forse che col miglior attacco. Beh, in questo è stato maestro Fabio Capello, sì, in Milan, famoso, dove il capocannoniere credo fosse Massaro, con 10 o 11 gol non subiva mai gol, qualcosa come 17 20 gol in un campionato. Sì, è vero. Quindi è evidente, ma la stessa Inter l'anno scorso aveva una difesa imperforabile, certo, se uno va a pensarci bene. Come no? È evidente che sulla difesa bisogna costruire poi la classifica, no? Questo sì, non c'è dubbio assolutamente. Max l'ha fatto bene, per quello ti dicevo del 9, soprattutto l'ha fatto bene dopo gennaio, quando sono arrivati dei giocatori che sono adattati immediatamente alla sua mentalità, al suo tipo di gioco, soprattutto uno su tutti, direi Van Bommel, Van no? Bommel, che li ha quadrato un po' lì, senza essere costretto come aveva fatto con la squadra inglese, col Tottenham. A mettere Thiago Silva sulla metà campo, togliendo un perno della difesa insostituibile, quindi certo, ha trovato il giusto equilibrio e soprattutto connessa a Thiago, o Thiago ultimamente Jeppes, insomma, sono diventati imperforabili, o Van Bommel lì davanti. Van Bommel, un acquisto decisivo che insomma, anche lui, anche la sua presenza ha permesso, ma poi forse la naturale evoluzione, di togliere quell'etichetta che in fondo non era così simpatica, no, per un allenatore, di Ibra dipendente, che insomma è circolata per almeno una buona parte del girone d'andata, forse di più. Ma sai, quando hai un giocatore come Ibra è possibile che il gioco passi attraverso di lui, lo è stato anche nell'Inter, lo è stato anche nella Juventus. Non è reato, dici? Però non è reato. Togli al Bologna di Vaio, il Bologna c'ha 20 punti, certo, in classifica. Quindi, o Cavani al Napoli, vedi bene che insomma sono sempre un po' dipendenti da qualche fuoriclasse. Però sicuramente il Milan ha trovato più possibilità di andare a rete, perché come ti dicevo prima va con i centrocampisti, soprattutto ha fatto vedere quando manca Ibrahimovic, Pato e Robinho Cassano o Cassano Pato risolvono lo stesso le situazioni, e le risolvono nel migliore dei modi. Quindi c'è un'organizzazione di squadra che va al di là della dipendenza da un giocatore singolo. Senti, quando avevamo parlato di Milan e di Allegri per l'appunto a settembre, all'inizio della stagione, ma forse addirittura alla vigilia, non ricordo bene, io mi ricordo un tuo paradosso di allora, ma paradosso che poi si è rivelato tale fino a un certo punto, e cioè con tutti quei giocatori davanti, allora c'era ancora anche Ronaldinho, e quindi con questa... con questo gusto per l'estetica eccetera, secondo me dovrebbe avere il coraggio Allegri, avevi detto tu, di lasciar fuori Pirlo, che allora era sano come un pesce, e di puntare su un centrocampo di mediani. Poi Pirlo in realtà si è tolto da solo sventuratamente per una serie di infortuni. Ha inciso questo a parer tuo? Ma a parer mio adesso non vorrei che sembrasse quasi che io non stimi Pirlo, che è un giocatore non bravo, bravissimo, eccezionale. Sì. Però io dico che Pirlo ha condizionato il gioco del Milan negli ultimi 7 anni, di Ancelotti, che sviluppava un gioco completamente diverso che passava esclusivamente per i piedi di Pirlo. Sì. Il grande possesso di palla, tipo mentalità tipo del grande maestro Lido. Cioè molto possesso di palla in maniera che non ce l'abbiano gli altri e che abbiano una possibilità di offendere gli altri. Su questa è una teoria, e Allegri gioca con teorie diverse, come ti dicevo, una volta conquistata la palla prende un po' dalla teoria del basket di una volta che pigliavi il rimbalzo, il primo sguardo è lontano a vedere se qualcuno è partito quasi per il per contropiede. Non parte il contropiede, si disegna un gioco, si sviluppa una giocata. Questo è il concetto, no? Mentre prima, una volta che veniva conquistata la palla, passava per Pirlo, che la dava a Nesta, che la dava a Pirlo, che la dava a Biatti, che la dava a Pirlo, che la dava ad Abate, che la dava a Pirlo, che la dava a Zambrotta, che la dava a Pirlo, e avanti così, fino a quando Pirlo decideva che era ora di scatenare le punte. Questo era un po' il gioco che faceva il Milan, molto dipendente, era un Milan Pirlo dipendente, quello sì. Certo. Quello sì, sicuramente è un Milan Pirlo dipendente, che è un grandissimo giocatore. Per il gioco di Ancelotti, che voleva sviluppare Ancelotti, andava benissimo. Cambiando la mentalità, forse diventava un po' difficile cambiare la mentalità immediatamente di Pirlo. E allora ecco che giocando con Boateng, Boateng gioca qualche metro più avanti, non gioca mai con la faccia verso la propria porta, difficilmente si fa superare, quindi difficilmente passano palle filtranti per gli attaccanti che tagliano, e quindi la pacchia per i due centrali difensivi, certo. Questo non c'è dubbio, se uno va a vedere i numeri di quando gioca Van Bommel, i numeri dei gol incassati dal Milan, si accorge subito a prima vista che insomma incassa la metà di quando non gioca Van Bommel. Sono drasticamente diminuiti. Dobbiamo fare un intervallo, Gare, perché come sempre le tue riflessioni a voce alta sul pallone sono molto ma molto interessanti. Ricominciamo tra un minuto. Stiamo ripercorrendo in compagnia di Giovanni Galeone l'annata del Milan e in particolare di Allegri, cioè vista dalla parte dell'allenatore. Senti, non era cominciata benissimo questa avventura, c'era stata una battuta sui capelli lunghi di... No, che all'inizio che di quelle che insomma, sembrava una presa di distanze. Ma Max non ha mai avuto capelli lunghi, li ha avuti leggermente più lunghi, però direi sempre ordinati anche da giocatore. Non è stato mai un capellone, né mai potrebbe esserlo, non ne ha la mentalità, la filosofia, niente. Un ragazzo molto equilibrato, molto tranquillo. Senti, io mi sarà tagliato un pochino, ma penso sì, proprio un pochino, perché non ne ha più neanche molti, tra parentesi, fanno male anche a lui. Questo, e in questo sta seguendo il maestro, no? un po' alla volta. No, è vero, comunque lui non fece una piega, forse diede una corciatina ai capelli, ma poi... Però, in compenso, poi, questo allenatore che appunto è così a modo, è così educato, eccetera, ma quando si è trattato di accontentare magari il presidente con un taglietto di capelli è un conto, quando si è trattato di risbolognare in Brasile Ronaldinho non è che ci ha messo tanto, No, non ci ha messo molto, direi. Ma è stato bravissimo, cioè, a parte la storia dei capelli c'è stato qualcuno che l'aveva criticato perché alla presentazione praticamente aveva parlato solamente il dottor Berlusconi e lui era stato zitto, è vero. Ma naturalmente se tu sei un dipendente e parla al tuo presidente non vedo perché tu debba, non c'è ragione di educazione che preveda che tu possa interromperlo e intrometterti. Se dopo lui ti dà la parola, bene, parli, altrimenti niente, stai zitto e fai prendere al presidente tutta la responsabilità di ciò che dice, tutto basta, insomma. Quindi era stato molto bravo anche lì, secondo me. Lì la pagella è subito salita, è scesa un po' con quella squadra malefica lì inglese, che col non mi ricordo Tottenham. Mai il nome, che è il Tottenham. Perché il Milan era più forte del Tottenham, la partita in casa è stata un po' buttata via. È risalita nettamente poi con i derby e con la tranquillità che ha saputo tenere dopo il pari col Bari, la sconfitta di Palermo, certo. Soprattutto avendo a che fare con giocatori che hanno anche loro grande carisma, tipo Seedorf, tipo questi giocatori qui, insomma, che sono riconosciuti lì dallo spogliatoio e sono persone di grande personalità, sicuramente. Ma Max ha carisma, è naturale proprio, gli viene naturale comportarsi in una certa maniera e almeno dalle dichiarazioni che io ho letto quest'anno non c'è giocatore che abbia avuto modo di lamentarsi con lui. Sì, sì, quindi il carisma è giusto quella cosa lì, sì, no? Poi ha fatto questa sua scelta, ha fatto capire probabilmente alla proprietà, alla presidenza e a quant'altri che il caso Ronaldinho poteva stravolgere anche l'equilibrio dello spogliatoio, perché ultimamente sembra che questo ragazzo non fosse poi tanto ligio ad andare a fare allenamenti e a mantenere una vita consona a quella che è la vita di un atleta che deve essere decisivo e determinante proprio per portare avanti il sogno del Milan, che era questo scudetto, che in fin dei conti manca da 7 anni, no? Certo. Ridendo e scherzando. Era una cosa seria e bisognava andare avanti seriamente. Credo che Allegri abbia fatto intendere queste cose fino a quando poi gli hanno dato ragione e le cose, facendo i debiti scongiuri, sembra siano andate bene. Senti, c'è stato, tu hai ricordato il periodo del Tottenham, l'eliminazione al Tottenham che indubbiamente è la macchia sulla stagione del Milan, perché era una squadra alla sua portata. Io ricordo che in quel periodo Tu un giorno mi hai, insomma, in uno dei nostri contatti, un giorno mi hai detto, e non credo di svelare niente di indiscreto, davvero, mi hai detto, ma sì, mi ha invitato Max a venire a vedere il Milan, ma in questo periodo non sta giocando bene, io non so se ho voglia di venire fino a Milano per vederlo giocare così. Sì, è vero. È vero, è vero, non stava giocando bene, aveva dei problemi, però mancavano dei giocatori piuttosto sì, decisivi per il Milan. E lui propose questa storia con Thiago Silva a metà campo, forse rischiando un pochino, soprattutto in difesa, no? E poi non, effettivamente non stava sviluppando un bel gioco in quel periodo lì. Ha avuto un periodo nero dal quale è uscito benissimo, tra parentesi, sì, certo. Provando, riprovando, provando anche la soluzione di Boateng, che naturalmente non aveva in coppe, cose eccetera. Cioè, ci sono state tante piccole cose che hanno bloccato il cammino della Champions, non ultima quella di non essere più tanto abituati a giocare ad altissimo livello la Champions in Milan. Non è ancora pronto per una Champions fino alla fine, probabilmente a mio avviso non lo sarà neanche il prossimo anno, fra un paio d'anni credo che possa proprio farcela. Senti, così tu hai già risposto a una domanda che arriva, perché io non ti dico quante congratulazioni stai ricevendo in tempo reale per il tuo eloquio forbito e per, in sostanza, sono due grandi filoni, e l'altro filone è per la maniera così semplice che hai di spiegare calcio. C'è giusto un Roby da Vittorio Veneto che ti voleva sapere da te cosa manca a questo Milan per tornare vincenti in Europa. Cosa non l'hai detto, però gli hai già detto di mettersi il cuore in pace ancora per un anno, se non ho capito male. Sì. Beh, io ho visto a Milano il Real Madrid, per esempio. Sì. Come squadra mi sembra più avanti, come calcio europeo. Il Barcellona fa un calcio spagnolo. Sì. Spagnolo, forse europea ma non tantissimo, infatti quando gioca contro l'Arsenal cose può trovare delle difficoltà, l'anno scorso le ha trovate con l'Inter, il Manchester è ancora un gradino sopra. Il Milan è sicuramente qualche difensore, soprattutto difensori laterali, sì. Perché centralmente Thiago, se dovesse continuare a giocare in Esta, sono imbattibili. Un difensore laterale ci vuole per il Milan, proprio un difensore. Ma credo di aver letto che già si stanno dando da fare. Stanno cercando un esterno sinistro del Marsiglia. Stanno cercando un esterno sinistro del Marsiglia. Un centrocampista, perché anche il gatto qualche annetto in più ce l'ha. Uno degli altri motivi per cui se l'otto di Max gli sposano di Gattuso, forse lì è stato facile il suo intervento, perché hanno giocato assieme a Perugia. E quindi sai, sono anche amici, certo. Però anche questo è un grande merito di Allegri, recuperare Gattuso. Poi quindi un mediano e una punta tipo, io dico tipo, sì. Mi piacerebbe lo comprasse il Milan, tra parentesi, l'attaccante del Palermo, Hernandez, come si chiama? Sì, Abel, ecco. Hernandez. Hernandez, quello lì mi piace terribilmente. Nel prospetto, lo so, Milan, lo vedo perfetto per fare l'Ibrahimovic, se manca Ibrahimovic, per fare il Patto, se manca Patto, per fare Cassano, se manca Cassano. È un giocatore, a mio avviso, perfetto per il Milan. Hai capito. Siamo partiti da Allegri e siamo arrivati a un consiglio d'autore. Ecco, questi qui sono tre giocatori, non tantissimo. Puoi provarci quest'anno e poi la prossima volta si vedrà, insomma, dove intervenire ancora. Ma credo che in un paio d'anni il Milan possa andare in finale. Senti, tra l'altro, niente di più facile che se sta andando in queste ore a Milanello, in questo periodo a Milanello per il pomeriggio, per l'allenamento, niente di più facile che ci sia il tuo amico e allievo Max che sta ascoltando, che ha ascoltato quello che hai detto. Non lo so, ma ogni tanto parliamo, ma non per consigli, per carità, che sarà stufo anche lui di sentire la storia del maestro. Io non gli ho consigliato proprio niente, assolutamente. No. Chiaro che se lui mi chiede cosa ne pensa, abbiamo preso Van Bommel, io gli dico subito grande acquisto, per esempio. Certo. Abbiamo preso quest'altro, dico insomma, vorremmo prendere questo, e mi dice un giocatore del Schalke 04, e io dico sì, lascialo giocare là che è meglio, magari, no? magari lì sembra giocatore, ma certo, certo. Ma in, è un'altra cosa. Infatti il rapporto è quello, però io ho avuto modo di verificare anche di persona che da parte sua, cioè che è un rapporto vero il vostro, che da parte sua c'è ancora una deferenza come se ancora tu fossi, diciamo, una specie di fratello maggiore, non dico di padre, ma di fratello maggiore. Ma credo che suo papà abbia meno anni di me. Conosco bene, conosco la mamma, sono stato al suo matrimonio, insomma, io con Max ho avuto un rapporto un po' al di sopra delle righe di quello allenatore giocatore, perché certo, mi sono stato vicino in momenti, insomma, non felicissimi. Lui da giocatore mi ha dato tantissimo, veramente tanto tanto, e io mi auguravo anche questo, credo di avertelo detto una volta, che lui ottenesse da allenatore i successi che avrebbe meritato da giocatore, che non ha ottenuto, perché era molto bravo come giocatore e ha ottenuto di meno. Mi sembra che, insomma, che l'augurio che gli ha fatto si stia cominciando a realizzare, no? Gale, grazie. Grazie a voi. Ci sentiamo in una prossima occasione. Bene, allora, non era solo la pagella di Galeone D'Allegri, avete sentito, ma è stata una disamina completa di come Allegri, a parer suo, ma non solo suo, ma insomma lui ce l'ha spiegato come ce le sa spiegare le cose di calcio Galeone, ce l'ha spiegato in dettaglio come è stata in pratica, vista dal punto di vista tecnico e della gestione dell'allenatore, com'è stata questa stagione del Milan, che ha portato, salvo cataclismo, insomma, che ha praticamente portato al titolo di campione d'Italia, al primo tentativo sulla panchina rossonera. Allegri, ripeto, dopo che già era caduto al Milan, a Rocco, niente meno, a Sacchi, niente meno, e ad Alberto Zaccheroni. Adesso intervallo, poi dopo i mercati, la seconda parte del programma dedicata invece, direi, a quanto di internazionale si è visto ieri sera, senza esagerare con il livello, e invece a quanto si spera di livello più alto, vedremo stasera da Madrid. Adesso i mercati. C'è una dichiarazione particolarmente lusinghiera che ha rilasciato Alex Ferguson dopo la vittoria di ieri sera del suo Manchester United sul campo dello Schalke. A proposito del portiere avversario di Neuer, ha detto: Neuer è stato incredibile e forse questa è la miglior prestazione di un portiere che io abbia visto nella mia carriera. Ora, dato che la carriera di Sir Alex Ferguson è discretamente lunga e di partite ne ha viste di portieri puri, eppure se quella di Neuer ieri sera è stata la miglior prestazione di un portiere nella carriera, vista nella carriera di Ferguson, beh, insomma, vuol dire che è stata davvero qualcosa di speciale. I complimenti a Neuer sono arrivati anche da Van der Sar, che ha riconfermato per l'ennesima volta che a fine stagione chiuderà con il calcio a 40 anni. E Neuer non è escluso che sia davvero uno dei candidati a prendere il posto di Van der Sar. In ogni caso, appunto, tutto questo è arrivato in conclusione di una serata che ha visto una prestazione straordinaria, pazzesca addirittura, di questo portiere, che si è opposto praticamente da solo al tirassegno del Manchester, che fin dall'inizio ha preso a bombardare la porta dello Schalke, nemmeno parente di quella della squadra che si era vista contro l'Inter. Ora, anche lì bisogna poi sempre intendersi fino a dove arrivano i meriti del Manchester nell'aver ridimensionato lo Schalke e dove invece arrivavano i demeriti dell'Inter nell'averlo invece esaltata questa squadra tedesca, che è pur sempre la squadra tedesca piazzata oltre il decimo posto della classifica del loro campionato. Il commento alla vittoria finale di un giocatore che ha giocato da noi, un giocatore del Manchester che, ogni tanto è giusto ricordarlo, ha giocato da noi a Monza, ma ha giocato da noi anche in una squadra siciliana di categoria ancora inferiore, che era il Marsala, se non ricordo male, e questo giocatore è l'esterno sinistro dello United, Evra. Penso che abbiamo fatto una bella partita, ma non perfetta, perché penso di andare in spogliatoio 0-0. Eravamo molto incazzati perché abbiamo avuto almeno 6 occasioni nette, però diciamo che siamo contenti della partita perché abbiamo giocato un grande calcio, abbiamo creato molte occasioni per marcare gol, abbiamo fatto 2 gol, penso che in una semifinale non è facile di fare 2 gol perché penso che abbiamo preso il Schalke veramente al serio. Per me sarebbe molto orgoglioso di avere nella storia dei giocatori francesi più finali di tutti. Però quello che sono concentrato è che non voglio perdere un'altra finale, perché ho già perso 2 e ho vinto 1, e se perdo la terza chiederò al mister di non giocare più in Champions League. Beh, la giocherà senza dubbio, perché ormai con il 2-0 di ieri sera di fuori casa non credo proprio che lo Schalke abbia alcun margine di rimonta ad Old Trafford. Poi che la giochi la vinca, la giochi la perda, va bene, lì entrerà questa cavalleria che avete sentito da un termine che ha usato all'inizio, da un'espressione che ha usato all'inizio, effettivamente ricorda abbastanza bene la sua esperienza italiana. C'era un ascoltatore, ogni promessa è debito, che ieri non sono riuscito a mandare in onda per ragioni di tempo alla fine. Aveva chiamato da Taranto, si chiama Diego, eccolo, buongiorno. Buongiorno, dottor Garaltini. Dica. La ringrazio per avermi richiamato. Allora, io volevo fare una semplice considerazione. Combinazione, stiamo parlando proprio di quello che volevo parlare ieri, cioè di Allegri. Penso che Allegri sia stato poco elogiato dai media, in genere. Cioè, cito qualche suo merito. Ad esempio ha fatto giocare un po' tutti come Merkel e Strasser, ha fatto crescere giocatori come Abad e Boateng, ha creato un ottimo spogliatoio, lo si nota appunto nei cambi, vedo che si abbracciano in occasione del gol tutti quanti. Infine, questo è il lato che mi piace di più, è un gran signore, non di quelli che lo sono appunto quando le cose vanno bene. Ha dimostrato di essere anche la vigilia del derby, quando mi è piaciuto molto, cioè l'ho trovato molto pacato e piacevole, proprio nell'imminenza del derby. Quindi devo dire, io ringrazio la società. E a proposito, ho ascoltato prima, se non sbaglio, Galeone ha parlato del fatto di Ronaldinho, no? Ha sì. Cambiato due chiacchiere con lui per Ronaldinho. Io ritengo che Ronaldinho sia andato via perché sono d'accordo sempre Berlusconi, che sa sbagliare delle volte di credersi. D'altronde, 25 anni, cioè, gli uomini sono cambiati, cambiano, ma lui resta e bisognerebbe riconoscerlo, ha vinto tanto e come nessuno al mondo. Io la ringrazio per avermi ascoltato e attendo la risposta per radio. Arrivederla. Grazie a lei, Diego. Dunque sì, Galeone, i meriti di Galeone, i meriti di Allegri li ha illustrati talmente bene prima Galeone che non mi sembra di doverne aggiungere altri, sarebbe oltretutto assai meno autorevole la mia opinione rispetto a quella di un tecnico dello spessore del vecchio Gale. I meriti umani anche certamente, i meriti di comportamenti, i meriti di eleganza che Allegri ha avuto, se non si è parlato molto, cioè, a parte che non è vero, ma se Allegri non è stato così enfatizzato magari in rapporto ad altri allenatori, probabilmente questo potrebbe dipendere dal fatto che non è stato questo, oggettivamente non è stato questo campionato sublime, no? Questo non per demerito del Milan ovviamente, ma semmai per demerito di altri, cioè non è stato un campionato di livello così alto o che ha creato suggestioni di particolare spessore tecnico. Il Milan è quello indubbiamente che lo vince con pieno merito, perché è quello che l'ha giocato meglio e che l'ha interpretato meglio e che meglio si è saputo forse in certi periodi anche adattare a una mediocrità complessiva. Renzo ha chiamato da Imperia, buongiorno. Sì, buongiorno Garanzini. Dica. Io la ringrazio per lo spazio e la ringrazio anche perché lei con la sua inventiva va a pescare questi personaggi di tanto in tanto assolutamente godibili, le interviste con ad esempio Albertino Bigon, Ottavio Bianchi, oggi Galeone, persona squisita che chissà come mai non allena più. Ma non è un ragazzino, Renzo, non allena più anche, non è un ragazzino. Anche perché non è un ragazzino. Certo, però da quello che ha detto e da quello che si vedeva quando allenava, ha portato anche lui, come Sacchi, che ha avuto ben altra strada, delle novità nel calcio italiano. Comunque, io volevo chiedere una cosa, probabilmente ha già risposto indirettamente, ma io stavo telefonando per questa diretta e ho perso un pochettino il filo in quel momento. se Allegri, se il Milan Allegri chiede a lui, a Galeone, se lui è disposto, se dà dei consigli sul mercato, dei consigli sulle tattiche da adottare ad Allegri. E poi un'altra cosa, un'osservazione che faccio io e che ho sentito fare dall'ascoltatore precedente, con il quale mi associo, intanto incrocio le dita perché io sono milanista, quindi questa mia non è una celebrazione perché dobbiamo ancora vincere lo scudetto, ma se il Milan, ad esempio, Allegri ha riperso il filo oggi è successo già prima, no? È stato lei stesso a dircelo. Senta, facciamo così, rispondo alla prima. Galeone sì, ha parlato di futuro, ha anche detto che a pare suo il Milan non sarà pronto nemmeno l'anno prossimo per tornare a primeggiare in Europa, perché insomma, gli pare, la sua opinione, che il gap rispetto alle grandi squadre europee sia ancora non sia facilmente colmabile in un anno. Dopodiché si sente spesso, questo ha raccontato, si sente spesso con Allegri, si confrontano su opinioni, su tutto, con grande franchezza, visto il rapporto che hanno sempre avuto, ma non si permette Galeone di dare dei consigli. No, non è un gran signore soltanto Allegri, è un gran signore anche Galeone, quindi, e credo che basti riascoltarlo ogni tanto per capirci, quindi si guarda bene dal dispensare consigli, tantomeno non richiesti. Alessandro Milano, buongiorno. Sì, buongiorno Garazzini, complimenti. Stavo nella pausa, stavo rientrando in ufficio, ho ascoltato una cosa che mi interessava particolarmente, che era questo: il livello del calcio italiano. Io non voglio essere disfattista, assolutamente. Ho 31 anni, però ho visto delle squadre, diciamo, molto più forti del calcio, diciamo, nostrano di oggi. E mi riferisco al Milan di Sacchi, mi riferisco alla stessa Inter del Trap, che ha fatto un anno pazzesco. Vabbè, erano altri livelli. Secondo me all'inizio degli anni 2000 il calcio, il nostro calcio, ha perso molto di livello. Ecco, io dico che l'ultimo grande giocatore è stato Ronaldo del nostro calcio, ma semplicemente per dire che ieri, vedendo, ricollegandomi a lei quando ha detto della partita di ieri sera tra Manchester e Schalke, secondo me non è proprio l'averla sopravvalutata l'Inter, lo Schalke, o comunque avendo fatto, diciamo, trasparire quelli che sono meriti dello Schalke, ma piuttosto che il nostro calcio ha un livello così basso che oggi lo Schalke 04 ha strafigurato contro l'ex prima della nostra classe. Secondo me non è un caso che la meno forte delle inglesi abbia vinto con la più forte italiana. Solo questo è volevo dire questo. La ringrazio. Grazie a lei, Alessandro. Davide Sani da Parma fa notare con una mail, dice: ma avete notato come ha esultato Giggs? Ha allargato una sola volta le braccia con la sobrietà tipica dei grandi. Ormai in TV si vede di tutto e per emulazione anche i più giovani pensano più a lui che a come esultare piuttosto che a stare in campo. E invece mi fa piacere far notare, scrive appunto Davide Sani da Parma, come, con quale sobrietà un campione come Giggs, nonostante quel gol fosse una liberazione, no? Perché erano almeno 7-8 volte che sprecavano la palla davanti alla porta, sprecavano, oppure Neuer faceva miracoli. Sì, l'ho pensato anch'io, caro Davide, perché sono abbastanza certo che se quel gol avesse segnato uno della Nouvelle Vague, soprattutto uno della nostra scuola, si sarebbe levato la maglia, sono quasi sicuro, perché ci sarebbe stato, come dire, l'effetto liberatorio, no? Giggs ha alzato un braccio, come sto vedendo in una rievocazione di Sky adesso che sta andando in onda, come alzava il braccio Di Stefano, come alzava il braccio Puskas ogni tanto non alzava nemmeno il braccio, perché era talmente facile per lui fare gol, che era una cosa di una normalità assoluta. L'ultimo intervallo di oggi, le strade. Torniamo con la rubrica di Nicola Filippone, che oggi avrebbe potuto essere, diciamo, pure banale, se vogliamo, e soffermarsi su un Real Barça, tra l'altro di Coppa, esattamente di 50 anni fa, in cui il Real vinse al Camp Nou, poi per 3-1, poi avrebbe vinto per 3-1 anche la partita di ritorno a Madrid, e quindi si straqualificò per quella finale che poi si straqualificò per una finale che stravinse contro l'Eintracht di Francoforte per 7-3. Era per l'appunto il grande Real di Di Stefano e di Puskas, ed era quella la partita filmata a cui prima stavo buttando un occhio durante i vostri interventi. Invece Nicola Filippone ha trovato una chicca incredibile che sinceramente nemmeno io avevo mai sentito. Eccola qua. Sembra ieri. 27 aprile 1974. All'Old Trafford, il centravanti scozzese Dennis Love, in una delle sue ultime apparizioni in campo, realizza probabilmente il gol dell'ex più beffardo e amaro di sempre. Con un geniale colpo di tacco, permette al Manchester City di vincere per 1-0 il derby con lo United, squadra nella quale aveva giocato per 11 stagioni, diventando un idolo dei tifosi. Ma con quella rete, l'ex attaccante del Torino condanna alla seconda divisione i Red Devils, che solo 6 anni prima avevano vinto la prima Coppa dei Campioni del calcio inglese. I risultati finali degli altri campi avrebbero decretato comunque la retrocessione della squadra che fu di Best e Bobby Charlton, ma il gol di Love passa lo stesso agli annali come il colpo di grazia. E la sua espressione disperata dopo la prodezza è un'immagine struggente come poche. Magnifico, un Amarcord davvero magnifico, su di uno straordinario giocatore, uno dei più sottovalutati della storia del calcio di tutti i tempi. Nicola Filippone ha detto centravanti, probabilmente perché in quelle ultime stagioni o in quell'ultima stagione al City, può darsi che lui avesse, allora non c'era la visione del calcio internazionale che c'è oggi, può darsi che avesse un po' traslocato, no? e che avesse avanzato un po' il suo raggio d'azione. In realtà Lowe è sempre stato una mezzala, che aveva cominciato da mezzala arretrata la sua carriera, anche quando giocò nel Torino nel 61-62, e poi un po' alla volta avanzò quel ruolo. Lowe è stato anche pallone d'oro, è stato uno dei tre grandi fuoriclasse di quel Manchester United mitico di fine anni 60, in cui gli altri due, ha ricordato bene Nicola Filippone, si chiamavano Best e Bobby Charlton. Ci sono tanti ascoltatori collegati e questo mi fa pensare che non so se riusciremo ad ascoltare le voci delle vigilie di Guardiola e Mourinho. Non che ci perdiamo tantissimo, tutto sommato, perché a forza di avvelenare i pozzi mi pare che i risultati siano arrivati. Sergio, chiamato da Roma, buongiorno. Buongiorno, Sergio Garanzini. Io vado un pochino controcorrente, non nutro una grandissima simpatia per Allegri, proprio così, come sensazione istintiva, non tanto perché io sia un tifoso, chiamiamoci così, del Napoli, per il quale, tra parentesi, mi sento di affermare che non ho mai creduto che potesse vincere lo scudetto, perché non può vincere lo scudetto una squadra che perde tante partite e comunque di quel livello, che è buono ma non eccelso. Credo però che, avendo alle spalle il Milan, come l'Inter e come la Juventus quando non sbaglia tutto, sia una sorta di dovere vincere uno scudetto, perché un presidente come Berlusconi, uno staff come quello del Milan, praticamente ti compra quello che vuoi. Allora, diciamo, sento un po' più nostalgia per scudetti come quelli del Napoli di fine anni 80, della Roma più recente o della Sampdoria, sono ormai lontani, e credo quindi che in questo caso diciamo che il Milan abbia fatto il suo dovere, Allegri anche abbia fatto la stessa cosa. Poi, quanto alla sua capacità, penso sia un po' da provare in circostanze diverse, come quelle proprio di tornei europei, dove ci si confronta su altri piani, con altre squadre, con altri allenatori. Non mi sembra una novità, ecco, che dopo l'Inter torni il Milan a vincere il campionato, grazie. Mancava da 7 anni comunque in casa del Milan, quindi diciamo che 7 anni può già essere un'epoca discreta per rispolverare il concetto, se non di novità, comunque perlomeno di alternanza. E dato che appunto le grandi squadre che lei ha citato insomma si alternano praticamente sempre, io poi sono d'accordo che ci sono meriti certamente superiori o probabilmente superiori, ma quasi certamente sempre nel vincere campionati in provincia o comunque nel vincere campionati alternativi rispetto alle grandi, fin lì siamo d'accordissimo. Con tutto questo, il centro al primo tentativo in una squadra che un campionato non vinceva da 7 anni, unita all'eleganza del personaggio, unita all'eleganza di un livornese no, che mi pare abbia tutt'altra educazione sportiva, per esempio, rispetto a quella di un altro livornese che guida invece il Napoli, beh, insomma, mi sembrava che fossero tutte cose da segnalare. In ogni caso, io oggi mi sono limitato a registrare le opinioni di un tratto di un napoletano di origine come Giovanni Galeone sul conto di Allegri. Maurizio ha chiamato da Milano, buongiorno. Sì, buongiorno dottor Garanzini. Io premetto che sono milanista e non tecnico. Le volevo chiedere un parere in questo senso. Fra i tanti parallelismi fatti e che si possono fare su Allegri, secondo me ce n'è uno interessante, quello che riguarda quello che abbiamo fatto fino a qualche giorno fa, prima dell'ultima giornata di campionato, che è quello con l'Inter, e in modo specifico con Leonardo, quindi allenatore su allenatore, primo anno, nuova grande squadra, due giovani allenatori. Per cui la domanda che volevo farle è questa: cosa ne pensa lei di come i due personaggi, in maniera diciamo più centrale in questo caso Allegri, perché di lui stiamo parlando, sul loro modo di comunicare, che credo che sia altrettanto importante rispetto ad altre cose, dopo il campo ovviamente. La ringrazio e le auguro buona giornata. A me sembrano, io guardi, davvero uno studio sul modo di comunicare da parte degli allenatori me lo risparmio volentieri, anche perché ascolto meno interviste che posso. Ne leggo qualcuna, ma quelle televisive davvero me le risparmio praticamente tutte, quindi non credo di essere la persona più indicata. Quello che è certo è che si tratta di due signori della panchina, di due persone di grande educazione, di grande senso della misura e di grande rispetto per l'avversario, sempre, cosa che non è poi così infrequente, ma non è neanche così automatica, no? dalle nostre parti. Basta, insomma, direi tutto qua. Da Vittorio Veneto mi hanno sollecitato alcuni amici, alcuni ascoltatori, alcuni lettori anche del Sole e di altre cose. Sollecitato un breve ricordo di Gigi Polentes che è scomparso qualche giorno fa durante i giorni pasquali a Vittorio Veneto, che era stato una colonna della Lazio di Maestrelli. Campione d'Italia nel 74, Polentes era di Vittorio Veneto, era una persona deliziosa, di grande semplicità contadina di un tempo. Quando gli domandavano come avessero fatto a vincere quello scudetto, a proposito di scudetti alternativi, lui invariabilmente rispondeva, anche a distanza di tanti anni, me lo domando ancora adesso. Andiamo a Monza da Marco, buon pomeriggio. Buongiorno Garanzini, molto, molto contento di essere con lei a parlare di sport. Volevo appunto aggiungere un dettaglio su Galeone, che ricordo allenatore del Pescara. Forse lui non è contento di quello che sto per dire. Cioè, vi ricordo che quando la Juve acquistò Jan Rasch, praticamente sto attaccante qua, riuscì nell'impresa di segnare quasi tutti i suoi gol di quel breve periodo in Italia al Pescara di Galeone. Riuscì a farne 7 e quindi questo mi ha fatto ricordare il mister, che in quegli anni lì, insomma, l'unica squadra con cui riusciva ad andare a segno Rasch era il Pescara di Galeone. Cioè, se non vorrei mancare di rispetto al mister. No, figuriamoci, tanto se lo ricorda anche lui sicuro. E poi volevo appunto dire un'altra cosa adesso di Polentes, che ricordo felicemente, quando facevo la raccolta delle figurine, era una delle due figurine che mi mancavano per completare l'album, quindi insomma ha fatto venire in mente questo. Grazie Marco. Grazie Marco, entriamo per l'appunto in un clima di vigilia serale. E allora, le due conferenze stampa di ieri della vigilia, quindi sentiamo le voci prima di Guardiola e poi di Mourinho. Guardiola. Como el señor Mourinho me ha tuteado, yo también lo voy a tutear. Me ha llamado Pep, yo le voy a llamar José. No sé cuál es la cámara del señor José. Mañana a las 8:45 nos enfrentamos aquí en el campo, fuera del campo, y ha ganado. Lo ha ganado durante todo el año, lo ha ganado durante toda esta temporada y en el futuro lo que va a ser. Le regalo su Champions particular fuera del campo. En el otro jugaremos, o ganaremos o perderemos. Normalmente gana él. Su historia sí le avala. Nosotros a veces nos conformamos con victorias más pequeñitas, en las cuales provocamos la admiración del mundo y en las cuales no estamos muy muy orgullosos. Mañana a las 8:45 saldremos a este campo a intentar jugar al fútbol lo mejor posible. En esta sala, él es el puto jefe, el puto amo, es el que más sabe del mundo. Yo no quiero ni competir ni un instante. Siccome il signor Mourinho, traduco, mi ha familiarmente chiamato Pep, io lo chiamerò Cosè. Non so quale sia la sua videocamera, ma lì io voglio parlare. Domani alle 20.45 ci affronteremo in campo, fuori dal campo lui ha vinto lui durante tutto l'anno, ha vinto in tutte queste stagioni e vincerà in futuro. Gli lascio certamente vincere la Champions fuori dal campo, per conto nostro proveremo a giocarci quella sul campo, vinceremo o perderemo, normalmente vince lui. Le sue vittorie certo non sono paragonabili con i nostri piccoli successi con i quali veniamo ammirati in tutto il mondo, dei quali siamo molto orgogliosi. Domani proveremo a giocare a calcio nel miglior modo possibile, nella sala della conferenza stampa invece lui è il fottuto re e io non voglio competere neanche un secondo con lui. Abbraccerei Guardiola qualunque sia il risultato finale. Mourinho, a questo punto non posso farvelo, facciamo sentire un frammento solo e poi do la traduzione, un frammento solo veloce. Teníamos dos grupos de entrenadores. Un gruppo molto pequeñito di allora, entrenatori che non hablan de los árbitros. Ci sono due gruppi di allenatori, uno piccolo di quelli che non parlano con gli arbitri, uno grande nel quale ci sto anch'io, che criticano gli arbitri quando fanno errori importanti. Ora con Pepe entriamo in una grande, non ho una pozione magica, i miei giocatori dico semplicemente che più importante di qualsiasi, l'unica forza motrice è la volontà. Con la volontà si può fare qualsiasi cosa. Ne riparliamo domani. Grazie a Roberto Scaltritti in regia, Franco Piantanida in redazione. Buon pomeriggio.